Volevamo un posto nel mondo, ce l'hanno tolto. Volevamo un posto, ce l'hanno tolto. Molto il tempo del digiuno incolto. Campo tra onde nel vento di corvi. Arso ogni ramo d'albero torto. Pasto il digiuno di un ventre piatto. Mondo marcio, senza sbocco. Posto lugubre. Pandemia a mostro. Atto orchestrato dal potere occulto. Tolto dal piatto il nostro pasto. Nati in pasto, mica sotto una stella. Nastro perso al vento rosso. Schindler List, bimba di speranza. Covid-19. Sangue rosso bagna la terra del mostro. Nostro Signore prega, Papa Nero, non negare reddito universale. Male infame che rade al suolo. Hyperion, luci al neon, intermittenti tra chi è ricco e chi vive a stenti. Nella mente canti di pianti, tanti morti. Il meglio portati via dal peggio. Morti assenti, talenti tolti al nuovo rinascimento di una terra di lamenti. Dramma dentro che non finirà. Speriamo, ma piaghe tra le righe, manco decupito. Recupico, risa, massale isterico. Mentre malamente sirano di siracinesche. In su e giù fanno al miracolo, ora tacite. La città, girone infernale per chi fa male. Fottuto il paradiso della fame. Lame scattano sotto gole, ardono. Chiedono del pizzo lacrima. Donano danze di bimbe infernali di pianto. Loro sangue usato per ringiovanire. Ma bene, attenti ora alle ire del popolo. Adrenaline pronte al volo ultimo. Teste rase pronte, pronte a scendere. In campo apocalittico fendere. Fame con lame apocalittico. Volevamo un posto, ce l'hanno tolto. Molto il tempo del digiuno incolto. Campo tra onde nel vento arso. Ogni ramo d'albero perso.